che all'Astaveco è già da un anno che ogni tanto mi capita di andare. Di solito vado in compagnia di amici, persone care che comunque vivono quel posto attivamente, anche più di me in realtà. Io spesso faccio foto, qualche video, però non faccio né graffiti né altri lavori, diciamo, più artistici di quel genere, mentre ho un paio di amici che si vivono regolarmente all'Astaveco e fanno murales o installazioni o performance in quel luogo. Quindi diciamo che a me interessava raccontare quel posto un po' non come tanto luogo abbandonato e dismesso, ma appunto come un po' officina di lavoro di giovani artisti, un po' alternativa. Interessante questo, proprio questo aspetto, cioè che in realtà dall'abbandono è diventato un luogo anche abbastanza tranquillo per esercitarsi e per fare opere. Non la trovo un posto pericoloso, né sento l'ansia, anzi è molto bello trovarsi da soli nel mezzo della Staveco che è immensa. Non lo so, a me dà un senso in realtà di sicurezza. Poi ho sentito diverse opinioni e c'è chi invece è terrorizzato, quindi insomma penso sia molto soggettivo. Comunque fa un certo effetto. Ci sono opere di tantissimi artisti, tu ne hai ritratto qualcuno, puoi raccontarci anche questo? Alcuni sono di persone che conosco, altri invece semplicemente diciamo che mi colpivano di più. È pieno di graffiti, non penso neanche di averli visti tutti, perché come ho detto comunque è un luogo immenso. Diciamo che nella parte più centrale, che viene più usata appunto come officina, ci sono questi murales immensi e alcuni colpiscono molto anche per la disposizione sul muro, magari che inglobano parti che sono crollate o buchi, no? E quindi fa un certo effetto. Quindi no, sinceramente mi sono basata molto appunto su quelli che mi piacevano e che magari in quel momento con la luce che cadeva o con qualcosa a fianco avessero più, diciamo, un effetto su di me. Poi altri li conosco anche personalmente, gli artisti, mi faceva piacere fotografarli. Ci sono nomi noti a Bologna e non solo, c'è Eric Alcane, c'è Andrea Casciu, c'è Zolta, Crisa, ma anche altri nomi. Lì insistono diversi progetti amministrativi, diciamo così, di recupero di quell'area. Si è parlato della cittadella giudiziaria che stenta a decollare. L'ex Staveco è anche uno dei luoghi indicato dopo lo sgombero di Labà come possibile destinazione prima dell'assegnazione per bando che hanno avuto lì nell'ex sede del quartiere. Questi progetti poi andrebbero a distruggere tutto questo. Sappiamo che ovviamente la street art non è una cosa che rimane all'infinito nel tempo, però come ti immagini queste cose? Quella è una cosa interessante, ci ho pensato a lungo e anche è stato, diciamo, quello il punto di discorso con anche i miei amici frequentatori, perché il punto era: è un luogo molto bello e per gli artisti pieno di spunti e che dà proprio spazio. E diciamo che questo lo è principalmente perché comunque non è molto conosciuto, è comunque spesso sgombro da cose e quindi è abbastanza facile accedervi. Però certo, la sua magia la perderebbe totalmente nel diventare, diciamo, legale o comunque anche stabile, perché è pericoloso comunque starci tanto, potrebbe comunque cadere qualcosa, eccetera. Quindi da un certo punto di vista sarebbe bello rimetterla a posto. E dall'altro però diciamo che speriamo che venga utilizzata in maniera più, diciamo, aperta alla cittadinanza e appunto agli artisti in tutti i sensi, cioè anche magari più sul musicale, sul performativo, non per forza solo graffiti, però è proprio uno spazio molto ampio e che secondo me potrebbe essere proprio un bel luogo di incontro delle arti. Quindi diciamo che tra noi c'è un po' quel sogno lì, poi purtroppo cosa ci si farà non lo so. Beh, però potrebbe essere uno spunto, un messaggio da mandare a chi poi decide su quel posto lì. Sì, io spero poi sarà così e lo speriamo un po'. Io ricordo a tutte e a tutti che se vogliono vedere il tuo servizio devono comprarsi Piazza Grande, che non è più in distribuzione libera ma va su abbonamento, giusto? No, allora in realtà sì, va su abbonamento di sicuro. Poi ci sono diversi punti di distribuzione in città, il sito di Piazza Grande ci sono, comunque per esempio, non lo so, la Libreria Modo in via Mascherella, il Caffè della Pè, la Libreria dei Ragazzi in Piazza Maggiore, alla Cineteca, insomma posti comunque abbastanza, anche al Chinotto, locali diversi ci sono distribuzione. E se no c'è la distribuzione in piazza in diversi giorni,